Attenzione, canale 10, c'è nessuno? Buonasera, mi sentite? Il mio CVL contest pazzesco in 21426, ascoltate, non ne vale la pena. Orio, check, Orio. Qualcuno qua. Buonasera, Cari, tu sei? CQ canale 10? CQ 10, c'è qualcuno? Buonasera, vieni avanti, Giovanni da questa parte. Ecco, cambio. Attenzione, canale 10, cambio! Canale 10. E poi? Ciao, siamo fra. Ciao Marco. Come fa? È un po' suonatello. Sto facendo tarature perché questa è ricezione in USB, era fuori proprio, in ricezione. Trasmissione non saprei, ho migliorato così orecchiometro. Ma mi interessava la ricezione soprattutto. Va bene, anche questa è fatta. Quindi è già controllato, funziona tutto. Sì, però sto notando con dispiacere che quei ridicoli frequenzimetri della CRT che danno quelli esterni con lo spinotto ad attaccare dietro non servono a niente, perché praticamente anche se tu ricevi tutti bene e quindi si presume sia centrato, quello ti dice altre cose a fantasia, cioè è un giocattolino, è proprio un contentino per gonzi. Ma lo facevano con cifre verdi, rosse, blu. Ma se vuoi una frequenzimetro ce l'ho io, è un Racal professionale, dovrebbe, insomma, è grande quanto quasi quanto un computer,

Sì, anche perché qua per centrare la trasmissione c'è solo il VR21, cioè se ti centri in USB e magari in AM non è perfetto, non saprei cosa fare io, però in AM non te ne accorgi se sei centrato anche di 200-300 Hz, cioè il baracchino normale non se ne accorgo, anche mezzo chilo, anzi per dire, però in USB è critica, sempre mi dicevano sei paperino, sei spostato, allora ci siamo tolti il lente, dai. Vabbè, senza strumenti dire che sei spostato eccetera, mi sembra un po' così, ecco la cosa. No, io invece ti volevo chiedere un'altra cosa, perché è un po' strana. Allora, io ho un normale, se non tu lo sai, il Lincoln 2, parecchio normale, non è né toccato, così è come l'ha scatolato, l'ho messo, eccetera, eccetera, eccetera. A te e a tante stazioni ti sento non bene, benissimo. C'è una radio splendida, non è fortissima, ma non è neanche debole, cioè va bene, potremmo stare tutta la serata parlando senza uscirne col cervello bruciato. Però a me quando entra certa gente che c'ha il preamplificato alto, la radio cosa fa? Me lo seghetta, praticamente lo sento tutto così, capito? Proprio tutto messo male, assolutamente messo male. E quindi non mi stavo chiedendo, ma è un problema mio, perché questa cosa lo fa sia sul mio apparato, su questo preside, sia sugli altri apparati grandi, e sia anche su un baracchinetto omologato normale, che infatti ho detto, ma sarà questo difettoso, l'ho provato, l'ho attaccato, ma che tutta a strappi, certi, sono un paio di persone, che creano questo effetto. Presentemente hanno toccato gli apparati e sono oltre il 100% di emulazione, perché sennò io non me lo spiego. Questo tra l'altro questo link mi sembra anche abbastanza selettivo, però ho detto al gioco, volevo sapere se c'è anche qualche altro che ha gli stessi problemi, ecco. Allora, domanda, non è che stavi usando l'autosquelch inserito per togliere le soffie di fondo? L'autosquelch lo fa solo con queste persone, perché l'ho provato adesso con te e non fa niente di particolare, per quello lo stesso. No, a squelch aperto anche, a squelch aperto la voce, ti ho detto, diventa tagliata, seghettata. Ma che come lo fa così? No, stranamente no, la tua è una voce forte, però l'ha fatta quando non so che apparecchio ci avevi. Adesso ti ho sentito bene, Claudio, quindi senza alcun problema. Però con gli altri concerti è una cosa proprio spacca la radio, cioè non si capisce niente, come se fosse seghettata. Avanti Claudio, c'è anche Marco. Sì, sono entrato solo a salutarci, niente di che. Lo fa anche a me quando usano radio quelle modificate, quelle con l'eco, quelle cose lì. Devo un po' modificare o stringere o allargare, perché altrimenti non si capisce una mazza. Va bene, ciao a tutte e due, buon questo, buon tutto e ci riascoltiamo. Sono entrato solo a salutarvi, vai Marco. Sì, ok Claudio, questo purtroppo è il presidente, c'è poco da allargare, è già così. Ok, avanti Marco. Ciao Don Claudio, ben sentito. Allora all'inizio appena sei entrato sentivo qualcosina e mi ero ricordato che avevo lasciato l'NB più NL, perché non sembra, però se lo inserisci ti rovina certe modulazioni, quindi io l'avevo messo perché stavo facendo tarattura eccetera. Come l'ho tolto, sublime, come quel giorno che l'hai taratta, no? Sì, allora, quindi vabbè, ci sentiamo Claudio, ben sentito, quando vuoi. Vabbè, non dico che siamo qua perché è tutta la sera che mi stavo zuffando con tarature. Insomma, quando vuoi entrare in poche parole. Allora, per l'autosquelch me lo fanno numerosi apparecchi, tutti questi nuovi che hanno l'autosquelch, CRT 6009, HR5005, CRT 7009, 9009, hanno questo autosquelch che è come se una modulazione NM eccessiva, praticamente lo interpreta come QRM, cioè come c'è proprio il picco della modulazione, quando c'è la botta tende a chiudere e non si capisce niente. Devo usare lo squelch in modalità normale, se proprio lo voglio usare. Però lì stai parlando già di, non dico che sia un difetto, però per essere un baracchino non dovrebbe tagliare quei livelli. Che ci sia un problema di filtraggio, io non so come sia filtrato anche da M, c'è la banda passante, come puoi chiamare, a me col problema invece lo fa in FM col 3009. Se ci sono modulazioni troppo spinte, proprio veramente tipo FM larga, FM 88-108, lì me lo è terrificante, non riesco a seguire la persona. Se invece sono omologati con i soliti 2,5 kHz massimo di cosoli, tipo quelli inglesi, li sento tutti bene, meravigliosamente, perché loro se la tarano proprio a 2,2. I baracchini quando li compri è a 1,4 addirittura, 1,5, sono molto chiusi, loro li mettono 2, massimo 2,2 e sono un bijou. E a Sassari invece alcune stazioni in FM le sento male, cioè io ho quel problema sul 3009 mai in FM e non so lì cosa puoi toccare, non credo che si possa toccare nulla o già fa. Sì, ma guarda, purtroppo il punto è proprio quello, che non sei tu che devi toccare, sono loro che hanno già toccato. L'FM è fatta, diciamo, sulla larghezza di banda del ricevitore FM, strutturi già tutta la, tutto il seguito, quindi se riceve un'emissione troppo larga, innanzitutto diminuisce la portata, anche perché l'FM, tanto per cui spunti si usa sempre l'FM stretta sull'altra frequenza a 12,5 praticamente, mentre certe sono a 25, se tu ascolti a 12,5 ti accorgi subito che la voce cambia, ecco. E così è qua, si utilizza l'FM, o è tarata bene o se no va male, qua appena eccedi un po' tende a strappare, a fare difetti, e questa è una tendenza sì nostra, perché poi io li sento sentire dischi anche sotto, che sono favolosi, radio proprio perfetta, e hanno la concezione che più la radio è forte e più va bene, invece non è proprio così, anzi a volte spesso per chi non sa fare le cose per non, è come voler riempire un bicchiere con un secchio d'acqua, tutta l'acqua esce fuori, capito? Ed entra dentro solo quella che c'ha quella portata e basta. Comunque, vabbè, se la gente continua, infatti c'era anche, avevo visto un video di un riparatore, no, perché poi si danno anche al finale, si danno anche quelle cose lì, che si metteva la mano in testa di quello che vedeva, di questi pseudotecnici. Vabbè, e poi a qualcuno piace uscire forte, cioè molto forte, tipo il 45, che ci puoi fare, i gusti. Certo che se sono tutti con una modulazione buona, per esempio, guarda, certe serate entra, che ne so, Carlo, c'è una modulazione pacata, no? Non troppo forte, una modulazione da chiacchierata, poi ogni tanto si affaccia qualcuno sparatissimo che ti fa, soprattutto di notte, ti fa sordo, e allora io se sto ascoltando spengo o faccio altro, perché non posso stare alza bassa, e che te devo dire, piuttosto però se in AM è così drastico il problema, a me sembra che lì sia partito qualcosa. Cioè la M è proprio di bocca buona, che non sia partito qualche filtraggio, che ne so io. Ah, poi che Lincoln è? È Lincoln il primo, l'originale? O è Lincoln 2, quelli tipo digitale? Ah, il mio Lincoln 2 più, l'uso dovrebbe essere, che è quello digitale, AM/FM. Poi cosa c'è? AM/FM, banda laterale e PA. Allora, bisognerebbe fare qualche ricerca su internet, questi forum inglesi soprattutto, è vero che sembrano ferrati, che non abbia qualche menu di servizio migliorabile, sai, quelli molto delicati, più delicati di quelli che avevo toccato su quell'apparato, che non ti permettano di migliorare la ricezione. Poi vabbè, io ho 10 baracchini, per esempio Claudio è forte, no? L'altra volta che ha tarato quelle, cos'era, Saturn, eccetera, col 3900 lo sentivo bene. Comunque l'omologatino CRT, l'ultimo arrivato, in AM lo sentivo un po' strappato, cioè era proprio al limite, gli avevo anche detto al limite, invece col 3900 bene, cioè prendi 10 baracchini, 100 baracchini, ognuno riceve in modo diverso. Però quando diventa che proprio non ricevi addirittura, non lo so, qualcosina da rivedere lì. No, guarda, assolutamente, non è da rivedere, anzi da apprezzare, perché vuol dire che finalmente hanno messo dei filtri seri che riescono comunque a tagliare quello che c'è ai lati, che non ci dovrebbe essere, capito? Lui vuole quella radio, per preparato per ricevere quella radio, in parole povere, no? per le broadcasting, e quell'effetto lo tieni ascoltando a banda stretta le broadcasting praticamente, e allora inizi a sentire tutti gli effetti possibili e immaginabili. Poi in FM questo lo stesso è una bomba, cioè io sento i tedeschi, sento l'inglese senza alcun problema. Guarda, la prima cosa che ho pensato è cacchio, per essere un baracchino da 4 soldi, tra l'altro facciamo anche 5 da 5 soldi, veramente di qualità, ecco. Ce l'avessimo avuto una di queste apparecchie dei tempi in cui c'erano quelli che splatteravano 20 canali eccetera, capito? No, non è sordo, ti voglio dire, anzi è molto sensibile, la sensibilità sicuramente è anche data dal fatto che c'è questi filtri abbastanza buoni, che è difficile è torto da disturbare, capito Marco? Quindi non guai a toccarlo, poi sul ricettore non si tocca mai niente, se possibile, proprio perché è già tarato, è fatto con le caratteristiche che deve avere. Questo dietro, anzi sì, c'è la presa anche per essere programmato, eccetera, tutte quelle belle cose lì. Però c'è anche le memorie che io non uso mai, tra l'altro, dove sto adesso perché c'è la cosa illuminata. E va bene, infatti io utilizzo questo per non utilizzare quelli grandi che non... diciamo non è il caso, dai, è meglio utilizzarli per altro. Comunque un'altra cosa che ho letto che non sapevo, che mentre magari i radioamatori tipo in V, in U, ma anche sui 10 metri dove sono i ponti, hanno in FM una deviazione massima di 5 kHz, no? I baracchini sono anche più stretti, ci ho letto un picco massimo di 2,5 deve avere, e questa è FM stretta. Ecco perché poi quando ti dicono se è basso alza in FM, alza ancora, e poi però se ne va ben oltre i limiti, capito? Poi ho visto i prezzi di certa strumentazione per solo misurare l'FM, la deviazione FM, neanche lontanamente ci penso a spendere. Poi posate in modo appropriato, devi tararlo prima, con la potente muta, e poi vabbè, troppo complicato, troppo dispendioso più che altro. E poi cosa ti volevo dire? Tu te lo ricordi il primo TMR Brondi Lerassori, uno dei primi, l'FX10? Sì, guarda, è quello che ci afferma una forma simile a un 8, più o meno, in modo da essere molto maneggevole, con antenna corta, fissa, sì, lo ricordo, e ti dico che andavano abbastanza bene quegli attrezzi. Sì, benino, ma dove volevo arrivare? Allora, l'Are Tevis fa lo stesso apparecchio con lo stesso chassis, marcato Are Tevis, preso dalla Cina, sempre 500 milliwatt, 8 canali, non puoi fare niente, nasce così. E quello è talmente stretto che se tu parli con un apparecchio amatoriale, anche un Baobao, quindi a 5 kHz, se no FM, la cosiddetta larga, che sarebbe la normale, tu senti solo splatter. Che un giorno sentivo, con il ricevitore sentivo sull'8 PMR varie stazioni, non PMR vere, vabbè, quelle più performanti, sentivo solo splatter con questo Are Tevis alias Brondi FX10, solo splatter. È talmente stretto, praticamente è l'FM, è la narro del narro in ricezione, è strettissimo. Però i PMR veri, che sono molto molto contenuti di emissione, li senti perfettamente. Sì, però ti faccio notare che se questi avevano quelli lì, non erano tarati, diciamo, almeno a 12,5, perché molti, se ci mettono il canale PMR senza guardare poi la larghezza di banda, che è una cosa anche, perché lì ci sono i decimali dei decimali, e quindi molti apparecchi, tipo certi AESU ad esempio, magari un pochettino adattati, non riuscivano a... a impostare quella larghezza di banda, con la separazione di canale che dovrebbe essere, se non ricordo male, quindi 12,5, 6,25 praticamente, 6,25 che è la larghezza, la separazione tra un canale e l'altro. No, aspetta, però in realtà sono spaziati PMR di 12,5, però sono sfasati rispetto alla canalizzazione UHF solita, no? 12,5, 25, 50, 75, no? Di kHz, già hai capito? No, poi ho fatto la prova io, no, proprio sono stretti, devono avere un'emissione molto molto contenuta, una cosa peggio di tutti gli altri PMR, non avevo mai sentito un vero PMR così stretto in ricezione. Sì, ho capito cosa intendevi, sì, che praticamente certi apparecchi vecchi non potevi mettere 446.006.25, mettevano 446.005 oppure 080 come nel caso del canale 7 e c'hai sempre quello scarto, in più quello in ricezione, questo Red Davis è strettissimo, quindi se sei anche in più fuori largo di emissione, fuori frequenza, ciao, infatti sentivo solo splatter, non capivo, ho detto ma non sono rotti, non funzionano, e no, sono stretti. Invece tra PMR veri, originali e coso sono un bijou, non so se siano norma CE, comunque funzionano. No, se sono i PMR devono essere tutti a norma CE, se no automaticamente sono abusivi. Tu pensa, ho sentito una storia, adesso non so se fosse un automobilista o un camionista, questo ha avuto la sfiga di essere fermato da, credo che fosse con la finanza stradale, perché molti dicono tanto oramai è tutto libero, che ne frega a loro, e invece questo è incappato probabilmente o in un finanziere o in un poliziotto stradale, adesso non ricordo, però che sicuramente era un radioamatore o perlomeno era uno che magari ha lavorato in centrale operativa, e ha detto mi fa avere quell'apparecchio lì. Ed era un apparato non omologato, e quindi ci ha fatto passare brutti quarti d'ora questo signore, non so quanto l'hanno messo anche di contravvenzione, oltre al sequestro e tutto quanto, insomma un casino, questo per dire, no? Che a volte ci si fa belli eccetera solo perché tanto non guarda nessuno, ti capita il giorno che ti ferma proprio quello che se ne intende molto più di te di apparati radio e ti frega. Tanto mala, era bocca piena, non potevo rispondere. Sì, praticamente se qualcuno ha qualche baracchinetto, qualche peggio, qualche bandino in macchina portati spacciandolo per PMR, se trovi quello impreparato, ma deve essere proprio molto impreparato, non succede niente, ma se trovi quello preparato ti coda, scusando il termine, riprendi un attimo che prendo l'acqua. Ciao, buonasera. Oh, buonasera Antonio, ben ascoltato. Sì Marco, guarda che in realtà ce ne sono molti, perché tutte le associazioni hanno la corrispondente associazione dei radioamatori, associazione della protezione civile, associazione di quello, di quell'altro, eccetera, quindi insomma non sono pochi quelli che se ne intendono, no, in quel campo. Ok, avanti Antonio, sono io e c'è anche Marco, che da quello che ho capito anche in fase di mangiucchiamento. Capo, dai, continuate, io sono entrato a salutarvi, perché sto ascoltando la Formula 1, ok, ciao a tutti. Ok, grazie allora per i saluti Anto, buon divertimento con la Formula 1, alle prossime. Marco, sei rientrato? Sì, sono qua. Sì, allora, per quanto riguarda i Red Davis, Dunque c'è la Ferrari davanti, eh. A parte li prendi da AliExpress, no, quindi non è roba magari di ditte italiane tipo Brondi eccetera. Per quanto siano 500 mW RP, cioè c'hanno una portata classica ridicola dei PMR, no? Mi pare costassero 10 euro l'uno, uno 10 euro, due 15 euro, spediti, con spedizione compresa. Non mi ricordo se il marchettino era il CE, proprio quello come deve essere, ossia il CE China Export. Però dubito che sia proprio CE, perché sai, vengono direttamente dalla Cina, eccetera. Però, finché li ordini PMR è un conto, però li vendono le due versioni, quella GMRS per gli Stati Uniti, che pure vengono colorati azzurri, celesti, verdi, rosa, gialli, tutti i colori hanno, neri, no, io ho preso i neri. Certi non si accorgono cosa stanno comprando e poi si trovano quelli sui 462 MHz, non mi ricordo se era assegnata al Ministero della Difesa dell'Interno, vabbè, insomma, può essere seccante, ecco. Comunque davanti c'è la Ferrari, eh. Bene, bene. Chi è che aveva avuto un incidente in Ferrari da poco? Nessuno, penso. Sì, sì, l'hanno detto oggi anche. Schumacher, il figlio di Schumacher praticamente, però ha chiamato subito la madre dicendo che non ha niente di grave, quindi si non sperava solo in osservazione, giusto, perché ha preso una bella botta. Las stai dicendo. Ok, dai, continuate. Ciao. Oh, Giafra. Sì, non è il figlio di Schumacher. Ascolta, ma con questa radio te lo fa quel problema, giusto così per darti un indizio? Sì. Ti sento a tratti. Ok, è così come ti ho detto io. Questo è il Galaxy con Dame più 3 e fa questo difetto, perché lo fa anche a me quando modula Gianni, quando modula qualcuno. Va bene, continuate, dai. Sì, nonostante la radio non è alta qua, proprio tutta spezzettata, che non sia un po' anche fuori frequenza. Fuori frequenza è tua sorella, questo è in frequenza. E allora sta andando sul 100% per qualche motivo. Aspetta, facciamo una prova, Claudio, se non è fretta. Allora, qua arrivi bene, a 3.900 sento bene. Provo a attaccare anch'io il presidente. Vediamo se il McKinley è diverso da Lincoln come ricezione in AM. Questo è perfetto la radio. No, non mi ha mai creato problemi, anche in mano laterale, vi stavo ascoltando poco fa, siete perfetti, centrati a frequenzimetro con decimale 00. Ho azzeccato canale, banda, modo di emissione, sì. Sì, sei qua, no, non c'è problema. Galaxy Saturn Echo, Tane più 3 da tavolo e vatte della radio, circa una ventina. Allora, la timbrica, vabbè, diversa perché l'altoparlantino è frontale, però Gianfra, io qua non sento quello strappo che dici tu. Cioè a te proprio ti sparisce, come se ti sparisse la ricezione in base alla larghezza della... Già hai capito, non mi so spiegare io. Sì, esatto. Io ti sento bene. 100%. Tanto è vero che Claudio, lo sento benissimo. Quando la modulazione non oltrepassa quel limite, proprio c'è una... questo apparecchio c'ha un filtro in pendenza molto ripido, quindi sono anche migliori se vogliamo, anzi devono essere a malapena. E quindi crea questo effetto che quando lui o si avvicina al microfono o parla più forte, lui se ne accorge e lo butta fuori in parole povere. Deia, e qua è tutto, scusate, ANL eliminato, noise blanker eliminato, e casomai uso un po' di squelce, e tiene. Lo ricevo normale, certo, una versione sì, un'emissione larga, ma non strappa qua. Scusate un attimo, mi è andata l'acqua di traverso, mi sta. Vai Claudio. No, beh, sono entrato solo per fare sta prova, per vedere se Gianfranco se il problema era quello, dai. Vi ascolto, semmai ci sentiamo dopo, ok? Vi ascolto perfettamente, no? Non bene, magnificamente bene, dai, ci sentiamo dopo. Sì, Claudio, ok. Adesso ho acceso anche l'altro, c'è un analizzatore di spettro e vedo le ali che escono ogni tanto, no? Quando esce quell'effetto sull'altro che è acceso un due antenne separate, si sente sempre quelle ali, diciamo, viste sullo schermo, sul monitor, corrispondono praticamente alla chiusura dell'inco, ma anche su quello grande succede lo stesso, sono col filtro più largo, lo posso allargare anche manualmente, però è il filtro standard largo per ascoltare le emissioni che ci abbiamo noi in AM, è decisamente fuori, tutto lì. Red Bull ti mette le ali. Cioè praticamente cosa mi stai dicendo? Che sono fuori frequenza io. Io sono le 10:27:075. La radio è perfetta, non so cosa stai dicendo, non so. Te lo spiego tecnicamente, vabbè, tecnicamente è troppo complesso, ma non più di tanto. Allora, cosa succede? Succede che l'apparecchio si aspetta, con i filtri che mettono tutti, una certa larghezza di banda. Quando questa larghezza di banda è eccessiva, è troppa, praticamente tu ti stai avvicinando al canale 9, cioè non è che sei sul 9, diciamo che sei più vicino di quanto dovresti essere al canale 9 e al canale 11 praticamente. E io queste code che c'hai le vedo quando parli un po' più forte. Non sono tante da impedire totalmente la ricezione come in certi, però questo ho visto su un analizzatore spettro. Però ci sono. Comunque, volendole potrei eliminare allargando tutto quanto, diciamo, tutta quanta la banda, quindi ricevendo quasi chi c'è sull'11 e quasi chi c'è sul 9. Però queste cose ovviamente non si fanno, perché sennò a cosa ti serve la selettività? Non so se mi sono spiegato, e questo è un dato visivo sull'analizzatore inconfuttabile. Vabbè, io comunque esco bene, quindi a me l'analizzatore poco mi interessa, mi sento bene, esco bene, se poi c'è questa cosa che tu vedi nel coso, non so che cosa sia, va bene. Ok, Marco, riprendi tu e fai girare, io vi ascolto benissimo, perfetti, chiari, puliti e rotondi. Ma attenzione, la ricezione è diversa dalla trasmissione, sono due cose separate. E io ti ho capito, Gianfranco, non sono analfabeta. Grazie a Dio capisco perfettamente, perché a me gli strumenti poco mi interessa. Questa è una radio eccezionale, esce benissimo, se poi c'ha qualche spurietta è perché qua c'è roba attaccata, non è liscia la radio. Va bene, Marco, riprende e fai girare. Ehi, ma questa qual è? Questa non è il Saturn, è una, è l'altra. No, questo è il Saturn Echo. Saturn Echo col Turner più 3 dal tavolo, perché non esce bene. Sì, quella che abbiamo provato l'altro giorno, e diceva Gianfranco che, ti ricordi che l'avevo notato, col 3009 arrivavi che ti sentivo bene in AM, però quel CRT piccolino, l'ultimo arrivato, tendeva già a strappare, un po' una cosa simile a quella che fa Gianfranco, questo CRT piccolo omologato, mentre 3009 è più di bocca buona, però c'ha questo problema in FM è molto stretto di ricezione, è una cosa che ho notato sui due 3009 miei e poi su quell'altro che ha il Profeta, come si chiama? E sembra un Pluto però cromato, anche lui le stazioni FM, almeno quelle locali, le sente male, in più è spostato di frequenza, bisogna centrarlo in prima frequenza, con l'apparecchio di Gianni, almeno per l'FM, e solo che poi agire sulla, io lo chiamo banda passante, non credo che si possa fare nulla, boh, Gianfranco. In ricezione, No, non, ripeto, non devi fare nulla perché sono conformi al marchio CE. Gli apparati sono prodotti così. Se poi uno li modifica, sono chiaro, sono conformi. La cosa mi se tu vuoi disegnare. Poi a chi piace così, passo. Come si dice, contento lui, contenti tutti, non è che per me non è personalmente un problema. Capito? Claudio, per te sei contento, ti va bene? Sono contento che tu sei contento, ma il parere me l'hai chiesto tu, no? Io te l'ho dato. Mi auguro che non sei come certi che chiamano il controllo e poi magari si offendono pure, no? Quando le dici che qua io do tutti do pareri che ci fanno ogni giorno, dice, no, sta benissimo, c'è una salute del ferro, poi quando esce fuori muore, magari tutto lì, che non so se mi sono spiegato. Sì, ma io ti voglio far capire che è come ti dico io, no? Come stai dicendo tu, perché vedi adesso se tu controlli non vedi assolutamente niente, non si vede assolutamente niente, capito? Mentre invece come stavo parlando prima noti questa cosa, ma non è un problema della radio, è un problema che quando attacco l'amplificatore, come ha sempre fatto, si porta fuori, insomma, qualcosa in più, tutto qua. Va bene, non mi offendo io, no, cosa mi devo offendere? Poi io non ho chiesto nessun controllo. Ti ho solo detto a te se praticamente ti saturava la radio facendo questa prova. Io controllo e ne chiedo poco, so come esco, so le radio che ho, quindi non devo chiedere molti controlli. Sono abbastanza soddisfatto delle apparecchiature che ho. Va bene, come noti, se vedi, se stai guardando, penso che non ci sia niente adesso di oscillazione, perché ho staccato l'amplificatore che c'è inserito al Galaxy. Va bene. E infatti è proprio così. Io non sapevo che tu avevi riattaccato con qualcosa. Evidentemente quella cosa che c'è attaccata non è proprio al massimo, perché da qualcosa dipenderà questo. Adesso ti ho sentito tranquillamente. Quindi così abbiamo appurato una cosa che cosa fare quando viene attaccato, non è esattamente lineare, la parola infatti amplificatore lineare vuol dire che c'ha un andamento lineare, quindi deve essere come la radio, deve essere quello che ne esce dalla radio, qualcosa che deve solo mettere la potenza. Evidentemente non è proprio lineare, ecco, tutto lì. Beh, domanda, Claudio, ma la modulazione come ti varia? È un compander o è un doppio modulatore praticamente da quello che c'è? Non ti ho capito, cos'hai detto? Beh, quando tu aumenti la modulazione, cosa attacchi? Un compander sulla modulazione o un doppio modulatore? No, non è un sistema che l'ho comprata così questa radio, capito? C'è la bassa potenza e l'alta potenza, arriva fino a 50 watt, è stata modificata, però quando tiro su l'alta potenza aumenta automaticamente la radio, guarda, te lo faccio vedere in diretta, allora così è la potenza bassa, guarda, questa è la potenza alta, non è un amplificatore, è una cosa che c'è dentro all'interno, sicuramente sarà un amplificatore interno, però aumenta automaticamente sia la radio e chiaramente tira fuori queste variazioni che dice Gianfranco, tutto qua, capito mia? Però adesso, visto il passaggio da un istante all'altro, un po' te la satura, appena, a livello di saturazione però. Scusa, ho fatto una cagata io, non ho abbassato perché c'era la potenza d'ingresso e la potenza d'uscita. Adesso vedi, allora così praticamente io ho il tastino della radio inserito con la potenza minima, ok, perché poi quando disinserisco il tasto che è questo, mi abbassa la modulazione, guarda, stai attento ai passaggi, mi abbassa la modulazione, automaticamente devo andare a tirare su la potenza della radio che è questa. Ci siamo? Ecco. cucina radio pulita, questa è una radio pulita senza niente, senza nessuna modifica, quindi non c'è nessuna oscillazione nella esattore di spettro, tutto qua, ci siamo, quindi la radio è a posto. È chiaro che con queste modifiche che hanno fatto, io l'ho comprata così, si porta magari qualche spugliettina la tira fuori, ma niente di grave. Pure la portante c'è la riga. Comunque quando alzi, allora quando alzi sei limpido lo stesso, no, ma era così, dammi a sapere se era un compander o un M80 mili, tipo doppio modulatore, cioè su cosa agisce, su che principio, vabbè. C'è una portantina e quando eri basso era pari a te. Vabbè, lasciagliela fare, non è che c'è molto a giocare con le portanti. No, è una modifica che hanno fatto per la potenza, Marco, tutto qua, e automaticamente tira su anche la radio, capito? Adesso la radio è pulita, liscia, senza nessuna modifica inserita, ok? Per inserire la modifica devo abbassare questo e inserire questo, ecco, così c'è la modifica inserita, capito? Sì, vedo. Sì, la modulazione non perde. No, prima avevi sbagliato qualcosa e la satura. Forse avevi dato troppo ingresso, no? Non lo so. Eia. Allora, riprendi Gianfranco. Sì, infatti. È qualcosa che va. Ok. Niente, io stavo facendo una cosetta. Riprendi pure Claudia. No, dai, continuate pure, che io passo con l'altra radio. Ripeto, sono entrato solo per vedere se con questa radio, siccome una di quelle che modulano un po' tutti, tranne questa modifica che non c'è nessuno sul Galaxy Saturn, ecco, e praticamente volevo vedere se ti faceva quel difetto. Abbiamo appurato che fa così e quindi no, passo con l'altra radio, dai. Va bene? Non problem, dai, riprendete voi, io già sono qua. Ok, perfetto. Poi mi dici se per quella cosa che dovevamo fare ci sono ancora problemi. Non è urgente, tanto tutto il malloppo è fuori. Comunque, quando è? Avvertimi. No, è già rientrata quella persona là, quindi adesso ci metteremo d'accordo, poi ti avviso, ci vediamo e facciamo quello che dobbiamo fare, ok? Ah, sono contento, quindi ha risolto il problema, meno male. Sì, è rientrato. Adesso si tratta di capire quando lui è giù, capito? Giù in officina e gli riporto, perché devo sapere quando c'è, i turni, eccetera. Mi metterò d'accordo per telefono, vediamo quando c'è, ti chiamo, ci vediamo un attimo e gli riporto. Sì. Va non bene, va benissimo. Quando vuoi tu mi fai una grande cortesia. Così. Posso, ne faccio contenti due. Eia. Va bene. Approfittiamo che c'è ancora il fuoristrada e gliela portiamo, non c'è problema. Va bene, dai, cambio radio, era giusto per fare una prova, per fare andare un pochino questo Saturnetto. Marco, riprendi. Eccomi, anch'io ho cambiato radio. Devo stare attento a che microfono premo, perché ho visto di lasciarli accesi tutti e due per lasciarli belli tiepidi. E prima stavo per sbagliare e premere quello senza antenna, a rischio di bruciare i finali. Comunque la ricezione del 3009 è più bella, cioè la radio che c'è adesso, un attimo prima col presidente, questa è appena migliore, più calda, più non lo so. Vabbè, conta che quello è un altro parlantino frontale, quello del President, sarà largo due dita sarà, sì. Capito, invece il 3009 c'è un altro parlante già largo 1, 2, 3, 4 dita, abbondante anche. Claudio forse sta ancora cambiando la radio. Marco, io dovrei fare una prova, però purtroppo non so se andrà a buon fine o se sarà... ho proprio veloce, addirittura non uscirò. Devo provare un attrezzo che non è fatto assolutamente per l'AM eccetera. Tu mi dici se mi capisci solo. Tutto lì, probabilmente non mi capisci neanche. Ripeto, è un esperimento e quindi potrei anche uscire a fischi, a trombetta, eccetera. Prova un po', dai. Sì, ok, mi serve un pochino di tempo per staccare e riattaccare. Sto già iniziando a fare l'operazione. Chi era la portantina prima o chi voleva entrare? No, no, questo è Gianfranco. Permesso? Buonasera. Allora Gianfranco, sei tu portante muta? No Claudio, era più bassa, la portantina era tipo 995, quando tu avevi messo la potenza minima, come parlavi sentivo pigiare apposta sul segnale tuo, ma era bassa, era una cosa al di sotto di te un po'. Non ero io comunque, procedo fra poco. No, no, allora è la portante proprio. Sono io, buonasera, sto scendendo, sì, buonasera. La passo io. Sì, la passi. No, sono io, buonasera, mi senti Claudio? C'è un portante. Ciao Eugenio, mi copri con tre vatte? Ah, sì, che sto scendendo io, buonasera a tutti. Eugenio, c'è una portante a Sassari, sta pure salendo di segnale, niente da fare. Non sto scendendo del radio, o male che... Ma questo che... Come mi sono già la ciaccia? Se qualcuno non sta uscendo di radio non se ne accorge, perché sente un sibilo sotto, un qualcosa. Vabbè, mi sono scocciato, ci sentiamo, ciao ragazzi. Ok, oh, Marco, adesso inserisco quell'attrezzo, vediamo cosa succede, ok? Prova un po', dai. Oh, attenzione, Marco, mi ricevi? Modulazione si copia, ma c'è è accompagnata da un cinguettio. Perché purtroppo sono tutti messi a mezzo distributore, perché è tutto un pochettino provvisorio, non c'è marcatura, non c'è niente. Quindi il cinguettio, se lo senti anche senza ragione. Comunque l'importante è che sia comprensibile, mi stai dicendo che è comprensibile, non è troppo alta, non è troppo bassa, eccetera, eccetera. Riattacco il magnum. Sì, aspetta, comprensibile, ma questa specie di cicinguettio, di ticchettio, è molto...